Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Di Rosita Celentano e Angelo Vaira. Buona domenica! Aia, buona domenica. Ha tirato una pallina di carta. Volevo bloccarti sul tempo prima che... Sì, ti blocco io sul tempo. Buona domenica, buona domenica. Qui da, Sandra Mondaini. Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Esatto. Non c'è mai una volta che io possa fare quello che mi pare. Mai una, mai una. Guarda, non è il tuo caso perché fai solo quello che ti ma pare. Ma cosa stai dicendo? Ma cosa stai? Mai? Ma che ma coraggio! Dai, ma, cioè, ma io so quanti problemi mi faccio per stare dietro a te, ma dai. No, vabbè, mia nonna sa come diceva, ce la faccia come il sedere, che non diventa mai rossa. Ma passiamo alla prossima notizia. Cipillallero. Comunque, ho visto transitare Cruciani, se mai riusciamo a tirarlo dentro a fargli due domande. Sì, ciao. No, sono due qua, ma quello parla quando noi non ci siamo. Dai, Cruciani, invitaci alla tua trasmissione. Che così, dacci, cioè, ma lì prende il materiale. Vieni qua, prende il materiale, no, che noi facciamo estrapola con così tanta arte, così tanta maestria e lo utilizza in modo bico nei suoi programmi. No, mi è sfuggita, non avete visto la faccia di Vai? Era Peter, ci sono Peter e Miriam che ti guardavano non so, un po' terrorizzati e divertiti, non so perché così tenta che faccio tanto. Chi è? Era l'imitazione di chi? Beruschi, chi era? I Beruschi. Chi era Beruschi? Non è quel comico che faceva e allora vabbè, sta prendendo tempo incazzate quando le cose interessanti infatti, da comunque dire. Comunque benvenuti vai a tutti. Allora, ci avete scritto, qualcuno di voi chiedimi ci ha mandato se sono propria... felice @radio24.it. Chiedimi se sono felice @radio24.it. Ci avete mandato le vostre considerazioni a proposito del contratto, ne abbiamo ricordato. No, non ce l'avete mandate. Cioè, non ce le hanno mandate, io ne ho letta qualcuna sì invece. Ma pochissime rispetto a quelle rispetto cavolo, a io speravo che... Allora abbiamo parlato, se voi vi ricordate, qualche tempo fa smettila Celentano, che minchia cacchio. Amore, è bellissima questa musica. Bene, sarà la nuova sigla. La drive nuova in sigla di Chiedimi se sono felice. C'è il drive-in, ci manca solo quello. Allora, abbiamo parlato di un contratto che sì, un genitore statunitense era statunitense, canadese, sì, non mi ricordo sì, più sì, ha sì sottoposto ai suoi figli perché loro gli hanno chiesto di adottare un cane e lui ha detto aspetta un attimo, allora adesso facciamo un contratto in cui mi promettete di assumervi la responsabilità di questo cane che sarà amato, però doveva essere sempre soltanto un cane, non potrà mai salire sul letto, forse una cosa del genere. Sì, insomma, doveva decidere il nome, dovevano prendersi l'impegno di portarlo giù al guinzaglio. Noi ci siamo detti l'idea è buona, buonissima, ma pecca un po' questo contratto, cioè, sì, insomma, esatto, ci sono delle cose che proprio che non vanno bene. Bene, vi abbiamo chiesto di mandarci la vostra opinione, qualcuno l'ha fatto, allora abbiamo però deciso, distrattamente ce l'ha mandata giù un po' lì così per quello non lo temo. Abbiamo quindi deciso di portare a termine questa missione. Allora l'idea è questa, obiettivo da realizzare insieme noi e voi qui, Angelo Vaira e Rosetta Celentano, insieme agli ascoltatori di Chiedimi se sono felice, a realizzare un contratto che poi pubblicheremo sulla radio, sul mio sito, sul sito di Rosetta Celentano, radio, eccetera eccetera, che voi potrete utilizzare quando i vostri figli vi chiedono di adottare un cane che poi dopo diventerà sicuramente di responsabilità dei genitori, solitamente della mamma se sta più in casa, però in questo caso è un modo anche per responsabilizzare un po' più di più i ragazzi, comunque degli adolescenti, esattamente, che magari lo portano giù a fare la passeggiata, magari non la notte però la mattina, il pomeriggio, esatto, amore, io ho sempre ragione. Sempre, ti piacerebbe no caro, ce l'ho corretto, proprio correttissimo, esatto, corretto. Allora, correttissimo. Di che giusto per darvi un'idea, no, di che cosa si deve occupare, alla fine dovrà essere sottoscritto da ambo le parti, ovvero dal genitore e dai figli. Dovrà occuparsi di queste cose. Innanzitutto, delle attività che il cane riguarda. Cioè, quando uno adotta un cane, ovviamente, deve essere consapevole che questo cane dovrà uscire, dovrà mangiare, dovrà essere lavato, bisognerà farlo giocare, bisognerà farlo socializzare, soprattutto se è un cucciolo, bisogna educarlo. Quindi bisogna fare come prima cosa un elenco delle attività cose che riguarda. Tu non le cane vuoi suggerire adesso ai nostri ascoltatori? Beh, l'ho appena fatto, Rosita Celentano, ho appena dato dei suggerimenti. Quindi quello che dovete fare è fare un elenco di questa roba qua e cominciare a metterlo, a capire chi si occupa di che cosa, tenendo presente questo. Adesso parlando un attimino seri, sono intervenuto su un sacco di volte in famiglie in cui il ragazzino, anche a volte un po' grandicello, tipo 16 anni, ha detto: vi prego, ti prego, mamma, papà, regalatemi il cane, giuro, vi prometto che poi ci penso io, eccetera eccetera. Dopo un mese, quello là, dopo che si è fatto il giro con gli amici in piazza col cane, chi se ne frega, il cane poi è andato a stare con i genitori. Quindi? Quindi il punto è questo: attenzione a quello che fate sottoscrivere ai vostri figli, perché soprattutto se sono piccoli, io parlo sotto i 14 anni, non possono essere loro i responsabili totali del cane. C'è qualcuno, qualche figlio certo. illuminato che lo fa pure. Io conosco una ragazzina di 11 anni che si chiama Alice, non è mia figlia, che ne ha 9, che è quasi totalmente responsabile però del cane, ma bravo, voi dovete assumervi anche voi come genitori la vostra responsabilità. Non regalate figli ai cani ai vostri figli anche se loro vi dicono che se ne assumeranno e tutta la piena responsabilità, perché non sarà così, preparatevi già. Esatto. E l'altra cosa è saper scegliere anche il tipo di cane, perché l'ideale sarebbe andare a salvare un cane nei canili di base, a seconda anche della taglia, dell'età che hanno e della vita che fate. Però ci sono le razze che sono più portate per ragazzi piuttosto che per le bambine, piuttosto... Allora, sai che facciamo? La prossima puntata dedichiamo una parte proprio a questo: come si sceglie il cane, qual è la razza più adatta, se effettivamente possiamo parlare di tendenze comportamentali di razza e via dicendo. Bene. Quindi fate un elenco delle attività, mettete giù per iscritto chi si deve occupare di cosa tra genitori e figli, e poi cercate di introdurre nel contratto i principi ispiratori, cioè i valori nei quali crediamo, che sono l'amore, la compassione, la responsabilità. Insomma, è un insegnamento forte. Ma come forte. Sei profondo, vai, era bravo. Vabbè, bello sto contratto. Se dobbiamo farlo, facciamo. No, bene. Benissimo, poi dopo li confronteremo. Intanto adesso rimanete lì, che la puntata è appena iniziata e si parlerà di un sacco di cose interessanti. Sono Giorgia Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica di Giorgia Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. JP Morgan Asset Management vi presenta Chiedimi se sono felice, il mondo dalla prospettiva del cane. Buona domenica! E rieccoci qui. Angelo mi sta prendendo in giro perché ero un attimo, non ero proprio centrata. Buona a piombo. Domenica! Ciao Peter, ciao! Idioti, perché mi sono distratta e che sarà mai, perché tu sei sempre centrato. Ma assolutamente no, proprio per questo mi permetto, proprio per questo Dio li fa e poi li accoppa. E poi li accoppa, esatto. No, allora adesso vogliamo invece, finalmente siamo felicissimi di avere il telefono con noi il sindaco di San Gineto, Michele Guardia, che è il sindaco del paese dove purtroppo a giugno è stato massacrato il cane Angelo da questi quattro debosciati, di questi adolescenti. Sindaco? Buongiorno. Buongiorno sindaco. Grazie di essere qui. Grazie mille, siamo felicissimi di averla ai microfoni, perché così ci fa piacere anche sentire, poter parlare con lei e capire bene a che punto è questa vicenda, perché suppongo che sia investito da un sacco di... Insomma, è un po' al centro dell'attenzione negli ultimi mesi. Esatto. Lei nel bene e nel male. Per quanto riguarda questa vicenda, diciamo solo nel male, perché tutti i buoni propositi fatti da me in questi mesi sono rimasti inevasi, diciamo. Inevasi. Non hanno avuto un seguito. Senta, sempre, diciamo, in termini negativi sono stati presi i nostri buoni propositi come comunità, e questo mi dispiace tanto, ecco. Allora, noi sappiamo che lei ha partecipato al corteo a favore, appunto, contro questi ragazzi che hanno fatto che hanno torturato questo cane, perché abbiamo parlato con Francesca, la ragazza, Francesca quella lì, Consola, certo. Francesca Consola, che ha fondato, che ha aperto la pagina di Facebook L'Urlo per Angelo. Quindi lei si è anche sempre detto che si sarebbe costituito parte civile, giusto? Sì. Quindi l'ho detto dal primo giorno, dalla prima intervista che mi hanno fatto. Sì. Esatto, perché noi abbiamo parlato anche con dei legali, purtroppo la legge è quella che è, e quindi a questi ragazzi sembra che... Sì, se subiscono una condanna praticamente non andranno in galera, che è il sogno di chiunque, no? Diciamo, questi non possono... No. Però ecco, una delle cose che invece è una contraddizione è che i nostri animalisti... si lamentano della violenza contro questo cane, ma poi in modo del tutto scellerato, a mio parere. Poi sì, certo. Fateci sapere anche voi ascoltatori che cosa ne pensate. Però che cosa succede? Che il sindaco viene minacciato anche lui, viene minacciato di morte la sua figlia addirittura, giusto? senza motivo, confermo. Perché poi che cosa può fare? Cioè, dopo che ha fatto il corteo, si costituisce parte civile, il suo compito non è mica quello di... No, certo. Ha preso una posizione poi, perché lei sindaco l'ha presa netta la posizione, voglio è dire... Normale, è veramente... No, e poi oltretutto a questi che si dicono animalisti e si comportano quasi nello stesso modo che si comportano i ragazzi, anche solo verbalmente o con delle minacce... Per quanto mi riguarda non sono animalisti, cioè non fanno una bella figura. No, ti lamenti della violenza, ma poi ti comporti in modo così violento. Cioè, che cosa succede nella pratica? Cioè, commenti su Facebook, lettere a casa, sindaco, cosa che fanno questi? Sì, nelle varie interviste che ho fatto e quel poco che mi hanno concesso di parlare, diciamo, alla manifestazione, ho ribadito che è un gesto gravissimo, che la comunità di San Gineto si dissocia dai quattro ragazzi che si sono resi autori di questo gesto atroce, che comunque la giustizia farà il suo corso, come è giusto che sia. Noi dobbiamo aspettare che c'è il processo, si farà il processo, ci sarà la possibilità di costituirsi parte civile, chi lo riterrà opportuno, il comune è persona offesa in questo caso, e quindi ha la possibilità di partecipare attivamente al processo attraverso la costituzione di parte civile. Questo è stato detto e ribadito più volte, pure nelle varie interviste. Quello che contesto io è che è quello che ho detto sia alla manifestazione che alle varie interviste che mi sono state fatte in questi mesi, che la violenza non deve richiamare altra violenza. Certo. Perché la violenza può essere anche verbale, la violenza può essere anche su Facebook leggendo determinate cose, anche quella è una forma di violenza. Non è necessario per parlare di violenza parlare di violenza fisica, no? Certo. La violenza alcune volte fa più male quando è verbale, leggere determinate cose fanno male, dico la verità, perché comunque il sindaco in questo caso, il sindaco non è che si è reso autore del reato di cui sono, diciamo, indagati i quattro ragazzi, e non è il sindaco che li ha mandati a fare quel tipo di gesto insano è condannabile sicuramente. Però in questo caso il sindaco viene tirato in ballo ed è, dico la verità, tutti i giorni sono oltre centinaia i messaggi Facebook sulle pagine che fanno capo, diciamo, alla mia persona, che sono pagine politiche, poi non sono pagine personali, e non se ne esce fuori, non se ne arriva a casa. Perché comunque scrivono frasi riguardose, irripetibili, veramente volgarità di tutti i tipi. Ma io non è che dico questo, c'è la possibilità di andare sulla pagina di Facebook, San Gineto guardi avanti, San Gineto cambia, che sono due pagine Facebook politiche, e vedere tutti i commenti. Quindi non sto dicendo delle eresie, è semplice verità. In più voglio aggiungere altro, è una cosa bruttissima, un episodio bruttissimo, è giusto che io lo devo ripetere, perché comunque non si può arrivare a tanto. L'altro giorno mi è arrivata una lettera, mi è arrivata una lettera, ho aperto questa lettera, scritta a penna, c'era scritto sindaco mafioso, pezzo di merda, te ne manderò altre, e c'era una bustina con veleno per topi dentro. No, vabbè. Allora, questi non sono animalisti, questi sono idioti alla stessa stregua dei quattro ragazzi che hanno ammazzato il cane, perché se tu, cioè, non è intelligenza questa, non è così che si ottiene giustizia. Ma infatti, non so, emerge qualcosa di sensato da questo? Cioè, voglio dire, questa gente la offende, dice così, ma che cosa vorrebbe che lei facesse? Cioè, perché questa offesa? Quale scopo? Non lo so, non lo so più dopo tre mesi, perché dopo che un sindaco ci mette la faccia, ripeto, potevo essere anche libero di non partecipare alla manifestazione, certo. L'ho fatto. Certo. E quindi ha preso una posizione. Sono stato con loro, ho detto però in quella manifestazione che San Gineto, pur essendo una piccola comunità, comunque presenta tre strutture sul sociale, quindi significa che è una comunità comunque molto sensibile a certe, diciamo, a certe realtà, no? E quindi non per questo episodio, che è un episodio isolato, bisogna macchiare un'intera comunità a vita, giusto perché comunque quattro ragazzi di San Gineto si sono resi autori di questo tipo di reato, ecco. No, cioè, l'immagine di una comunità, mo tutte le recensioni, cioè noi abbiamo delle strutture, è un paese che vive prevalentemente di turismo, tutte le strutture quest'estate hanno subito delle recensioni negative. Ma dai. Cioè, pur non senza andarci nella struttura, no, perché solo perché San Gineto è negativo. Cioè, no, ecco, io vorrei dire una cosa, perché stiamo sconfinando, dico io. Allora, andando oltre a quello che è. No, io vorrei ricordare a chi ci ascolta che questa è una generalizzazione, come quando a noi non piace, a noi amanti degli animali, quando si dice che tutti i cani sono pericolosi, che i cani portano le malattie, queste sono generalizzazioni, no? Cioè senti che un bambino è vittima di un cane, tutti i cani sono pericolosi, quelle sono bestiacce, eccetera, eccetera. Così come non ci piace quando all'estero dicono che tutti gli italiani sono mafiosi. Allora, dire che tutti gli abitanti di San Gineto non sono meritevoli perché quattro persone hanno fatto questo non è corretto, bisogna andare a fondo. Lei, sindaco, mi sembra che abbia parlato con i quattro ragazzi. Sì. Cosa è emerso da questi colloqui? Che comunque, diciamo, hanno fatto una cosa di cui si sono, a loro dire, pentiti, anche okay. Se anche quando ho detto questa cosa mi hanno insultato. Io ho ripetuto semplicemente quello che è emerso dal colloquio. Ah, beh, certo, perché per loro dire che si sono pentiti è un atto di debolezza, no? Mentre invece. No, dire che non è vero che si sono pentiti. No, il sindaco è stato attaccato. Quando il sindaco ha detto questi ragazzi si sono. Quando hanno parlato con me, mi hanno detto che sono pentiti, ci saranno presi col sindaco. Ma chi se l'è presa col sindaco? I soliti animalisti, commenti, eccetera, eccetera. Okay. Sì. Vabbè, lì anche le famiglie devono prendere, per quanto mi riguarda, lo dico sempre, cioè se mio figlio facesse una roba del genere, io personalmente faccio vivere un bel lungo periodo di veramente pesante a mio figlio, perché deve capire il valore della vita. Sì, però lei non compete a me questo. No, certo che no. Io certo ho parlato con le famiglie, sì, ho parlato con i ragazzi, sì. Ho ripetuto quello che è stato detto. Magari non si sono pentiti, io questo non lo so. Io ripeto quello che è stato detto. Sì, ma certo. Da certo. Sindaco, da cittadino di San Gineto, da cittadino italiano, condanno il gesto fortemente. Senti, ma fare un monumento per questo cagnolino. Io ho fatto un'altra cosa. Ed è anche qua sono rimasto un pochettino un po'. Non dico deluso, ma quasi. Sì. Ho detto io, è successo questo episodio negativo. Da questo episodio possiamo trarne un qualcosa di positivo. Ho detto io. Certo. Facciamo una manifestazione ogni anno sugli animali, sul tema degli animali, sì, per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza degli animali. Benissimo. Cioè, questa proposta mia ad oggi è rimasta è volata via come il vento. Nessuno mi ha detto sì, facciamola, contattiamo il sindaco, contattiamo per fare questa cosa. Quindi di cosa vogliamo parlare? Siamo sicuri che alla base, vabbè, insomma, se lei vuole fare una manifestazione, ma casomai sentire anche Francesca, se lei è sindaco, non so se la conosce. Questa proposta qua l'ho fatta a tutte le interviste, l'ho fatta pure alla manifestazione di quel giorno, però. No, vabbè, ma sindaco, però ecco, si lascia dire una cosa: se lei vuole fare una manifestazione, prendela, fa, organizza con un comitato qualcosa. Dico, io dico di fare un qualcosa ogni anno. Lui dice ogni anno come commemorazione. Sì, vabbè, no, ma San Gineto, no? A prescindere dal fatto di Angelo, ma è successo questo fatto negativo, va bene. Noi possiamo organizzare ogni anno dei convegni, non so, una giornata dedicata agli animali. Ha dato la sua disponibilità, Piero. Io ho dato la mia disponibilità. Ecco, se lei forma un comitato di San Gineto che si occupa di questo, poi alla fine lo realizza. Sì, ma non magari, deve aspettare che ci siano gli animalisti. Magari se si sente con Francesca, che è quella che è di San Gineto, che ha aperto la pagina Facebook. Quella lì questa, diciamo, vabbè, sempre della Calabria, non è di San Gineto. Non è di San Gineto. Ah, okay. Va bene. Vabbè, comunque. Però quello che dico io, ho interpellato anche il dirigente scolastico per fare dei progettini nelle scuole. Così. Quindi diciamo che il comune si è attivato. Bene. Il comune ha anche una convenzione con un canile, ma già ce l'aveva prima, quindi non è che siamo gente così che vediamo. Allora, noi siamo in chiusura. Io direi questo: che il sindaco di San Gineto, Michele Guardia. Oltre ad essere stato dalla parte di Angelo, essere sceso in piazza, a costituirsi parte civile, eccetera, dà la propria disponibilità a chi volesse aiutarlo in questo a fare una manifestazione a San Gineto pro diritti degli animali ogni anno. Quindi se siete in ascolto o volete fare progetti nelle scuole, occuparvi di pet therapy a San Gineto, avete la disponibilità del sindaco. Sindaco, grazie mille di essere stato con noi. Grazie a voi per avermi dato questa possibilità. Ci tengo informati, se vuole noi siamo a disposizione per capire come evolve la situazione. Grazie sindaco, grazie, buona domenica, buona giornata e noi, buon lavoro. Grazie, e noi ci vediamo fra pochi minuti. Sono Enrico Ruggeri, questa settimana ci spingiamo ancora oltre con le nostre puntate del Falco e il Gabbiano. Zeman, un allenatore con tante idee e tanti nemici. Assieme a Omar Fantini racconteremo la storia di Gene Wilder, un attore che da Frankenstein Junior in avanti ci ha fatto ridere per decenni. E poi la storia dell'antagonista di David Bowie, Mark Bolan, il padre del glam rock, che guarda la sua morte attraverso un quadro di Magritte. E poi la prima donna che si spoglia, la prima donna che recita monologhi, la prima donna che sposa un uomo che ha 40 anni meno di lei, la simpaticissima Paola Borboni. E infine, insieme a Andrew Hove, primatista italiano di salto in lungo, raccontiamo il salto più incredibile della storia dell'atletica leggera, quello di Bob Beamon. Vi aspetto tutti i giorni alle 15.30, il Falco e il Gabbiano. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Eccoci, sempre qui belli pimpanti in questa domenica interessantissima. Belli, noi siamo pimpanti. Belli, pimpanti, interessanti. Molto interessanti, pimpanti. Beh, vabbè. Ma mi siamo mosciato il vaira. Vabbè, ma non mi seguire, cioè adesso mi tocca tirarti su di nuovo a me. Dai, forza, veloce, dai, presenta il prossimo ospite. No. Allora, il prossimo ospite è una persona che io conosco da poco, ma abbiamo già deciso che ci frequenteremo molto, perché mi piace molto già il modo di parlare che ha, molto bello, frizzante, fresco, giovanile, come il mio, non come quello di Vaira. E... scusa, non ho capito. Faccio finta di non aver sentito. Fai finta. Allora, no, e vi devo presentare Silvia Amodio. Silvia, ci sei? Eccomi, ciao. Buongiorno. Grazie per il giovanile, ahimè, comunque va bene. No, scusa, no, ahimè, ma anche se anche più giovane di me, quindi voglio dire, che cavolo, sì, se non sei giovanile tu io mi do... mese. Vabbè. Allora, Silvia, io l'ho contattata perché ho visto che è fotografa e fa delle fotografie delle persone assieme agli animali. Quando ci siamo sentite al telefono è venuto fuori un mondo fantastico. Non potevi che essere dell'acquario per essere una donna dalle mille, dai mille interessi, dalle mille sfaccettature. C'è Vaira che mi guarda e sorride sotto la barba. Sì. Io so perché. No, perché allora da lì è venuto fuori che non è solo fotografa, tu sei fotografa e giornalista. Sì. Però con una grande passione per gli animali, un animale in particolare. Svegliamo una cosa per volta. Un animale in particolare mi dice di andare a vedere su Facebook questa pagina che si chiama La Nina. Sì. E Nina è una gallina. Vero. Io ero rimasta la gallina Rosita, capisci? Quella vero, mi immagino le battute si sprecheranno, contenta la volevo fare, poi mi sono trattata. No, ma avresti, tu devi sapere che prima che vedessi io quello spot di Banderas, mi arrivavano sulla segreteria, avevo ancora la segreteria del telefono di casa, con su scritto, ciao Rosita, come va con Banderas? Io dicevo, ma questi sono scemi, ma che cacchio c'entra? Poi una, due, tre, io la televisione la guardo poco, poi ho capito chi era, la gallina Rosita. Siamo passati dalla gallina Rosita alla gallina Nina. Sì. Raccontaci un po' di questa cosa qua, la gallina Nina. Allora, la Nina è un'esperienza molto interessante, insomma, come voi avete anticipato, sono una giornalista, una fotografa, mi occupo di animali, ho fatto tutto un percorso legato agli animali e mi è capitato un po' per caso questo pollastro in casa. Il e pollastro. Per quanto, insomma, fossi predisposta, no, ad osservare con attenzione creature altre, devo dire che la Nina mi ha aperto un mondo, perché le galline, intanto io vivo in un appartamento, insomma, la Nina è una gallina malese molto molto piccolina, quindi, insomma, è tutto di conseguenza, perché la prima cosa che mi chiedono è dove fa la cacca. La farà, dove la facciamo tutti. Sì, no, sul magari, purtroppo no, quello è l'unico neo, vabbè, ma sorvoliamo, insomma, fa delle cacchine comunque molto piccoline, molto sode, sì. che con attenzione raccolgo, ecco, quella è l'unica stiamo nota... servendo a Cruciani su un piatto d'argento molto materiale oggi. È vero. Salutiamo, ciao Giuseppe. Salutiamo Giuseppe, volevamo intervistarlo perché l'abbiamo visto transitare qui prima, ora non lo troviamo più. Volevamo svelare lo scoop, è diventato vegano, quindi... Esatto. Non ci crede nessuno, comunque. Nemmeno lui. Nemmeno lui stesso. E quindi vi stavo raccontando, insomma, che la Nina mi ha aperto un mondo, perché, come sappiamo, i polli sono animali molto comuni, distribuiti su tutto il pianeta, numerosissimi, ma ahimè destinati all'alimentazione. Sì. Per cui, insomma, la sua presenza mi ha incuriosito, ho iniziato anche un po' a leggere, a studiare, così mi sono accorta che anche le cose più banali, no? Uh-huh. Ti chiedono quanto vive una gallina, boh, cioè il contadino ti dice 6 mesi, un anno, uh-huh. Le uova le fa sempre, un giorno sì, un giorno no, e c'è tanta letteratura legata alla zootecnica, ma veramente poco altro legato invece alla loro intelligenza, alla loro natura, ai loro processi cognitivi, esattamente. Al contrario, come tu sai, altri uccelli sono stati studiati, no? Certo. I corvi, eccetera. Piccione. È stata studiata qualsiasi cosa, io nello specifico ho studiato i delfini, eccetera, eccetera, ma davvero molto poco su questi animali. Che poi, fra l'altro, mi diceva che ci sono 7 galline per ogni uomo. Sì, forse di più, addirittura credo 8 o 9, destinate però all'alimentazione. Sì, ce ne sono tante. Però aspetta, sei andata molto veloce su un passaggio che io vorrei che a casa sapessero, perché chi ci sta parlando della gallina Nina non è soltanto una fotografa giornalista, ma è una persona che ha delle altissime competenze a proposito di linguaggio e comportamento animale, perché tu hai fatto una tesi, no, di dottorato, cos'è che era? Una tesi di laurea, sperimentale, a proposito del linguaggio dei delfini, giusto? Sì, quello che io ho studiato alle Hawaii, al Kualo Basin Mary Mammal Laboratory, e direi che il professor Guerma, insomma, che nel campo è molto conosciuto, erano proprio le modalità di comunicazione tra delfini e uomo attraverso linguaggi artificiali, da un punto di vista diciamo semantico e sintattico. In sintesi è come se uno parlasse con, proprio in soldoni, con un delfino attraverso il linguaggio dei segni. Oppure acustico. Quindi tu hai comunicato, sei riuscita a fare, hai comunicato con un delfino, con dei delfini in questo modo? Sì, è bellissimo, veramente ti svelano un mondo. Allora io dico sempre che prima di morire vorrei abbracciare un delfino e adesso comunicare, visto che ma tu quello lo fai. Poi abbraccia, gli frega poco. No, nel senso, ha una sua natura. Che delfini, non si abbracciano tra di loro i delfini. Tu devi rispettare la sua natura. Ho capito. Comunque l'intenzione era buona. Poi alle Hawaii. Ricordiamo che il cervello del delfino è ben più complesso del nostro. Ma torniamo alla gallina Nina. Quindi sì, il delfino questo... ha capito la parte molto molto bello. Poi vi racconterò, se ci sarà modo, in un'altra occasione, anche insomma la comunicazione dei delfini con altre specie, insomma tutta una cosa molto molto molto affascinante. Tornando alla Nina, insomma mi ha aperto un mondo, perché mi sono resa conto che è un animale intelligentissimo, non che io pensassi che fosse stupido, ovviamente, certo, vista la mia predisposizione, però neanche oggettivamente pensavo che fosse un animale così interessante. La Nina conosce, poi se avrete modo approfitto insomma per invitare le persone che ci ascoltano ad andare sulla sua pagina Facebook, che è la Nina appunto, dove nel suo quotidiano io la racconto. Ma visto che dorme appollaiata sulla spalla? Sì, ma soprattutto lei risponde al suo nome, interagisce con le persone, se suona la porta lei va a controllare chi è, gli ospiti lei li va a prendere, li riaccompagna alla porta, pettegola da morire, io sono la sua schiava, mi ha addestrato alla perfezione, no, fantastico. Dorme nel comodino, ma come ti è arrivata Nina a casa, scusa? Nina mi è arrivata perché durante un set fotografico ho fotografato un bambino con una capretta qui, e questa mamma che si occupa di animali mi ha detto: ma lo sai che esiste questa tipologia di galline, questa razza malese importata peraltro in Italia da molto poco. In questo istante sta salendo sul divano la Nina, me lo sto raccontando in diretta perché lei adora i divani, gli ho fatto tutte le cestine, tutte le cose da gallina, ma poi lei preferisce comunque il divano, perché è quello che sta facendo adesso. E quindi insomma mi è arrivato un po' per caso, sapendo che poteva avere un salvagente, diciamo così, nel caso non fossi riuscita a tenerla, perché ovviamente in casa mi facevo un sacco di scrupoli, però lei ha la possibilità di uscire, comunque qui la porto regolarmente fuori, quando tu vedrai la pagina della Nina la vedrai in spiaggia. Cioè, tu la porti fuori senza, ovviamente senza un guinzaglio? Lei mi sta appiccicata. Allora, il mio unico problema con la Nina è che lei è molto piccola, pesa 2,5 kg, quindi la porto solo in ambienti molto controllati, perché ho paura dei cani. Spiaggia, lei adora la spiaggia. Ma come dai, è stata bella la spiaggia. Ma tu quindi vai in vacanza con la Nina? Sì, in Versiglia, sotto l'ombrellone, ma è stata benissimo. No, vabbè, ma io ti adoro, ma fantastico. No, lei è fantastica. Quando lei dice adora la spiaggia, anch'io voglio una nina. Allora, noi sappiamo, questo la cresce, se quando la noi ci chiediamo... Infatti adesso mi sta salendo sulle gambe. Vieni Nina, vieni rispondi, vieni qua che stanno parlando. Cioè, sempre. Il vieni, desiderio ti fa capire come ci sia soggettività, un'esperienza soggettiva, un proprio mondo interno. Io desidero fare qualcosa, vuoi fare delle tue scelte, no? E questo è quello che va rispettato, è qui che c'è crescita da parte nostra. Tra l'altro mi risulta anche che le galline abbiano un cervello da un certo punto di vista più evoluto del nostro, cioè se il nostro cervello subisce dei danni non si ricostruisce da solo, quello delle galline invece pare di sì. Guarda, loro sono pazzesche. Io poi, per certificare quello che dicevo, perché appunto non voglio passare per la signora di mezz'età eccentrica che va in giro col pollo e borsetta, anche se è una testina di tutto rispetto, come vedrete. No, bellissima, l'immagine che hai dato di te fa molto ridere. Sì, non voglio passare per di mezz'età col pollo e la borsetta. Ho intervistato, magari lo chiamerete anche voi per certificare quello che sta dicendo, il professor Giorgio Vallortigara, che è un neuroscienziato dell'Università di Trento. Certo, no? Lo chiameremo sicuramente. E lui mi ha dato ragione sostanzialmente, cioè le galline sono animali molto intelligenti, conoscono i rudimenti della geometria euclidea, sanno contare e, come diceva Angelo, appunto loro hanno un cervello con una densità di neuroni. Il cervello, però, abbia ragione, essendo uccelli deve essere tutto molto leggero per volare, ma hanno una quantità di neuroni in proporzione molto molto densa, addirittura anche superiore ad alcuni primati, no? Quindi qui ti si apre tutto un mondo e tu dici ma certo. Quindi questa è una cosa importante, scusami se ti interrompo, cioè voglio dire, il cervello non è la complessità di un cervello non è data soltanto dalle sue dimensioni ma anche dalla densità di neuroni, quindi quando uno dice è un cervello piccolo come quello di una gallina, in realtà sta dicendo qualcosa, ti fa un complimento, perché non è il fatto che sia piccolo o grande, dipende l'intelligenza di quell'animale anche dalla densità, da quanti neuroni ha. Senti, lei impara tantissimo. Stiamo lei dando un sacco di materiale a Cruciani con sta gallina. Sarebbe stato bello avere qui Giuseppe con noi a commentare con noi la cosa di Cruciani. Ma guarda, Cruciani, vieni a casa mia, ti presento la Nina e vedrai che ti si aprirà un mondo. Allora, ascolta, Silvia, facciamo un attimo un piccolo break e riprendiamo subito dopo le chiacchiere con te. Sì, grazie. La gallina non è un animale intelligente, lo si capisce da come guarda la gente. Tomlinson, good morning. Ça va, vous qui nous écoutez chez vous à la maison. Bonjour Julie. Bonjour. Aus antirassistische Netzwerk Sachsen-Anhalt. 24 mattino di Alessandro Milan. Ma dove eravate finiti? Il Parlamento è aperto ogni giorno dalle 6.30, caffè, brioche e giudizi in libertà. E alle 7.20 vi leggo i giornali gratis. Alessandro Milan, il boss dell'informazione. O vi aspetto, è dal lunedì al venerdì. E siccome la carta costa, scopriremo anche l'articolo più inutile del giorno. Ma chi se ne frega! Axerta. Indaga. Documenta. Accerta. www.axerta.it. Vi presenta... Domenica, ore 14.30. Voice Anatomy. Radio 24. Non mancate, sarebbe un peccato. Parola di Bond, James Bond. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Il mondo dalla prospettiva animale, dovremmo dire. Perché buona adesso... domenica! Ancora? Ciao Peter, ciao Miriam. Ma sei proprio pirla, te lo dico in diretta radio. Bene, bene. Allora, abbiamo con noi ancora Silvia Amodio, che oltre ad essere fotografa e giornalista, vive con una gallina. Delle grandi competenze, Silvia, sulle cognizioni animali. Ci stava raccontando che Cocchi e Renato hanno torto nella loro canzone, praticamente, giusto? Certo. Assolutamente sì. Assolutamente sì. A parte che vabbè, insomma, lo sappiamo bene, qui gioca in casa un animale, dovrebbe essere rispettato indipendentemente da quanto è ovviamente intelligente. Bravissima. Sì. Però... non è che siccome è più intelligente allora più lo devo rispettare. No, insomma, sono sfumature un po' pericolose, no? Filosoficamente parlando. Certo. Quello più intelligente, quello più bello, quello insomma. E cioè, detto questo, adesso perché si ride, si scherza, poi in realtà, insomma, quello che riguarda la relazione con gli animali è un affar serissimo di cui spesso ci dimentichiamo, e ci dimentichiamo di far parte, no, di questo così siamo anche noi animali. Invece negli ultimi anni c'è questo allontanamento spaziale cognitivo un po' preoccupante. Scusami. No, quello che volevo dire proprio in sintesi, che l'anina è un po' la metafora, no, per me, per fare un discorso così a cui tengo, perché rappresenta un po' quello che di più, come abbiamo detto prima, no, sono animali molto comuni, quello che di comune abbiamo sotto gli occhi ma non sappiamo vederlo, non sappiamo guardare, no? Cioè si è svelato un mondo bellissimo e interessantissimo, no? Quindi qualche volta abbiamo una ricchezza sotto gli occhi e non la vediamo. Certo che è vero, perché io mi ricordo quando ero piccola che avevamo le galline in campagna per avere le uova fresche. Non le osservi mai abbastanza. Poi vabbè, se sei abituata a vederle nel cortile lì libere fra di loro, non è che ci convivi più di tanto. Però una cosa mi era rimasta impressa, mi dava l'idea che fossero curiose. Non so da se morire. Vedi? Ma la Nina è un'impicciona, vedrete. Non posso farmi spiuma, cos'è sola, che hai detto prima? Sta spiumando? Si spiumetta, perché ha un'altra cosa, lei è pulitissima, lei si pulisce in continuazione, è ossessionata dalla pulizia, sempre lì all'istante. Si spiumetta. Quanti anni ha? Ma lei avrà neanche un annetto, è giovane. Ma quanto vivono? Quanto vive? Prima, cioè, non tanto quelle che vengono prese e messe in padella, ma quanto vive? Non si sa quanto vive una gallina. Io continuo a chiederlo e tutti mi danno dei parametri così distanti l'uno dall'altro. Ieri un signore mi ha detto: ma quelle dei miei genitori che morivano di morte naturale 5-6 anni, mi ha preso un colpo. La mia vicina di Ombrellone invece, che mi ha dato un sacco di informazioni, perché lei l'ha sempre avute, no? Poi mi rendo conto che hanno più competenze persone che hanno vissuto direttamente a contatto con gli animali, che magari, che ne so, persone che si occupano per lavoro di animali, perché poi l'esperienza sul campo è fondamentale. Quindi ero affascinata anche da come lei, guardando la Cristina, come si comportava, così mi dava un sacco di informazioni e mi insegnava a leggerla, no? Ma tipo, cioè, che senso a leggerla? Fantastico. No, perché per esempio dice: ma quando mi farà l'uovo, no? E nella letteratura c'è scritto da 6-7 mesi, così, no? Lei l'ha guardata, gli ha guardato la Cristina e ha detto: secondo me lo fa prestissimo, l'ha fatto la sera stessa, no? La notte stessa. Ma chi questo? La sua vicina di Ombrellone. No? Che è una persona sicuramente senza un titolo di studio sugli animali. Un titolo di studio specifico. Ma le uova della Nina poi tu cosa fai? Le mangi? E le mangia mio figlio, sì, sono naturalmente bellissime. Ma che io non ho mai capito questa cosa, scusami, ma come si fa a distinguere un uovo di una gallina, quello da mangiare e quello che diventa poi pulcino? Se c'è il gallo sono verosimilmente fecondate, adesso lo dirà anche Angelo, e le altre, quelle della Nina, non sono fecondate essendo da sola, quindi non ci sarà mai. Quindi lei ha la certezza che è soltanto. Ma noi possiamo mangiare anche uova fecondate? Sì, li puoi mangiare, però ovviamente sai, molti si fanno degli scrupoli eticamente. No, però, eticamente. Vabbè, sì, non ci sto capendo più. No, perché stavo pensando, quando le avevamo nel cortile, avevamo anche i galli, praticamente noi rischiavamo di mangiare anche delle uova che volendo erano. Ma se gliele togli subito, però insomma. Ma in realtà le mollavano loro, perché noi le andavamo a cercare in mezzo al fienile, mi ricordo. Andavamo a cercarle in posti nascosti. Sapevo che ogni tanto andavamo a cercare. Se in quel posto trovavamo l'uovo mollato lì, ce lo portavamo a casa, e a volte non lo trovavamo neanche, perché non è che erano messe lì in batteria per farle le uova. Quando le trovavamo in giro le prendevamo. È magico. Beh, pensa anche alla perfezione dell'uovo, no? Io ogni tanto mi dico: ma cioè, tu pensa, con questa parte con la forma perfetta, non se ne parla, no? Fragile e resistente al tempo stesso, certo. Con questa parte esterna così porosa e rigida, la pellina dentro, il tuorlo, l'albume, no? Come si fa a non rispettare una creatura capace di fare un'opera d'arte un giorno sì, un giorno no, qualcuno anche tutti i giorni, no? Dico: prova a farlo te un uovo, no? Esatto. Senti, comunque il rapporto con te e Nina è veramente esilarante. Aspetta, e commovente. Io voglio chiedere una cosa, perché prima poi ci siamo interrotti, ma perché dici che è un'impicciona? perché lei sta sempre, cioè, adesso c'è un video, ora non si vede assolutamente niente, volevo farmi un bagno in santa pace, lei mi è salita sulla vasca da bagno perché voleva controllare che cosa stessi facendo. Ma non entra dentro lei... l'acqua? Beh, guardalo il video, fa ridere perché gli dico Nina non ti buttare, no? Lei comincia a camminare tutta di traverso, infatti poi a un certo punto interrompo perché ho il terrore che si buttasse in vasca. Ma perché? No, ma scusa, ma non nuotano le galline in acqua? Sì, non sono come le ocche. No, perché non hanno le zampe palmate, non, vero? Non credo. Cioè, non so, magari non succedeva nulla, però giustamente la gallina col bagno schiuma, così No, esatto. Senti Silvia, grazie di questa chiacchiera, però ti richiameremo perché voglio sapere tutto sulle Hawaii e sui delfini. Va bene, molto molto volentieri. Mi dispiace che tu non la possa vedere in questo momento perché è qua che il classico testo. Io so che la gente che ci ha ascoltato adesso è curiosa di conoscere Nina, dov'è che deve andare su internet? Su Facebook. Sulla pagina, la Nina, proprio lei, la sua pagina, è un personaggio pubblico, peraltro la Nina sta diventando un po' un'ambasciatrice, ecco. Diciamo che vorrei anche che lei avesse un senso e quindi stiamo costruendo intorno a lei una serie di progetti, abbiamo anche già scritto un libro per bambini che racconta le avventure della Nina e siamo in trattativa con degli editori, quindi insomma io spero che ne sentirete parlare perché adesso... Mi piace poi ritornare sull'ambito serio, anche se la Nina appunto fa sorridere. Vorrei che soprattutto i bambini capissero. A Milano spesso, sì, l'importanza. Sì, sai perché ti dico questa cosa? Pochi giorni fa ho postato su Facebook l'immagine di una bambina americana che con la mamma piangeva, mannaggia, abbiamo solo 30 secondi, te la dico al volo. Piangeva perché diceva che non voleva mangiare animali. Sì, l'hai visto. L'hai visto? Sì, e Angelo giustamente mi ha detto: perché i bambini di oggi non fanno l'associazione che il petto di pollo nel piatto è poi l'animale che tu vedi libero. Se tu gli dici, lo sai quello da dove arriva? Il pollo è quello il pollo vaschetta. È quello nella vaschetta del supermercato, poi non sanno che il pollo è quello libero, quindi guarda, volentieri. È proprio una vera e propria perdita, insomma, questo poi sapete che contribuisce a sviluppare l'empatia, insomma. Certo. Sì. Senti Silvia, grazie, abbiamo finito il tempo, noi ci sentiremo presto quando vuoi, così conosciamo personalmente anche la Nina, buona domenica a te. Buona domenica a voi. Buona domenica. Grazie. Ciao Silvia. Grazie. E voi scriveteci, chiedimi se sono felice, @radio24.it. Mi raccomando, le vostre proposte di contrattino fra genitori e figli quando i figli vogliono assolutamente un cane o un gatto in casa. Ciao.